musica fatta esclusivamente con la bocca, così. Alzo il volume della radio, arriverò all'ultimo stadio, non mi chiamate, non risponderò, dato che ora sto sintonizzato, ma se ti senti incazzato, apri la bocca e dagli fiato, contro il bavaglio di stato so che combatterò come un soldato. Sentimi, non manda la pubblicità, non manda gli spot, senti l'energia come un elettroshock, suona alternativa 24 non stop, se tu cerchi rock oppure il reggae e l'hip hop, te lo dico con le rime e con la voce che c'ho, trasmette in diretta dalla beta al top, è libera, libera, libera, antifascista, libera, libera, libera, antirazzista, radio transizione di fase quello che senti, pronta a dare voce forte a tutti i resistenti, fuori dallo schema del sistema, sta con chi si schiera, ne vale la pena, te lo dico ora mi senti. Mi senti o no? Mi senti o no? Alzo il volume della radio, arriverò all'ultimo stadio, non mi chiamate, non risponderò, dato che ora sto sintonizzato, ma se ti senti incazzato, apri la bocca e dagli fiato, contro il bavaglio di stato so che combatterò come un soldato. Questa è radio transizione di fase, tieni a mente. Radio transizione di fase, radio transizione di fase. Se non ora quando se non ora. ogni singolo filo di erba o nuvola rapporta anziché svilire la facoltà di essere diventati umani e di valutare tutti gli aspetti di questo nostro tempo che non può solo essere considerato storico. Ma ringrazio la storia per essersi rivelata senza farmi male. La sua consueta balaustra, la barba e i capelli incrostati dalla salsedine, dall'umidità di questa calura, quella salsedine che sale sopra da quelle onde che si infrangono negli scogli posti alla base di quel faro che ha appena illuminato e che gli permette di guardare l'orizzonte profondo del mare. Out of the Shell si immerge nei propri pensieri. Canzoni d'appartamento come una bestia in tana mangiando. appuntamento. L'allarme non disturba la fame negli ultimi minuti scanditi dalle ossa. La casa pericolosa, la città vuota di uomini e piena. Io sono una debolezza del passato, nessuno parla dietro me. La mia razza si assottiglia, nessuno parla dietro me. Ci vuole la vita per amare la vita. Out of the Shell è un delirio indipendente di intervento sociale. Al giorno d'oggi sia un delirio, specie quando questo pensiero è la metabolizzazione di una vita quotidiana. Out of the Shell va in onda l'ultima ora di un giorno e la prima del giorno dopo. Questa bilancia che si è immaginata è come se soppesasse tutta una giornata alle spalle e la mettesse a disposizione della giornata che l'attende. Perché un pensiero del genere non può non essere indipendente, non può non essere figlio di un qualcosa che non ha né servi né padroni, ha nel suo concetto stesso l'eguaglianza. E in tutto ciò sta forse l'essenza dell'essere indipendenti, l'essere liberi, l'essere in pace con se stessi, proprio perché non hai nessun servo e nessun padrone. Thank you. sociale perché, come un insignificante granello di sabbia in un immenso deserto, o come una piccola lacrima che si immerge in un infinito oceano. Equilibrio cosmico, Out of the Shell continua ad esistere. Fa parte di un grande contenitore. Questo contenitore si chiama Transizione di Fase, è un contenitore web in cui tutta una serie di persone hanno cercato di sperimentare un nuovo modo di comunicare, ossia un nuovo modo di essere bloggers, ed è quello di farlo con le parole, con la musica, non solo con i post. Proprio perché va sul web, non dovrei dirlo, ma chi ascolta vuol dire che si trova o su www.transizionedifase.org oppure su www.oots.it o www.outoftheshell.it. Se volete comunicare con Out of the Shell potete farlo in tanti modi, anzi in due modi. Uno mediato, che è quello che potete usare le vostre mail, l'indirizzo che dovete a cui dovete inviare le vostre mail è oots@libero.it. Potete comunicare con un orso. Questo è forse il modo migliore in cui si identifica Out of the Shell. Dovete utilizzare il messenger e dovete contattare un indirizzo. L'indirizzo è car@hotmail.it. Chiaramente car si scrive K-A-A-R.

onda rossa, posto, sta bruciando. E in fiamme, forza, innesca, ne spogono la rima. In prima linea, senza mezzo soldi, anzi, ma che ne stai capendo? Questa, oggi, non è solo una festa. Ti colpirà, senza paura. Faremo in modo che tu muori ancora, fino alla fine, come la bandiera. Aggredita, salita, sempre, ma se tu ci provi, fallo in maniera risoluta, saluta. Sì, perché se spari, disse, risponderò sparando. Bello, 89. Tu non puoi dimenticarlo, Vittorio è morto, morto, morto, l'ultimo minuto è stato assassinato. Cos'altro voglio dirti? Forza! Chi è che si fa sotto? Parti il tuo tempo! Ubriachi! Senza bere un sorso! Finiremo in una cella, ma chi? Dimmi è legale, chi legale, questa spacca terra. Sequestrano la gente per degli anni. Di questa spacca terra ad armi uccidono e punite per la strada le pallottole vaganti. Chi è legale, chi legale? Chi? Il criminale, giusto, l'ingiustizia, terribile bellezza. Vedo le celle, le ghetti che contrasto con i morti viventi. Questo è il momento, questo dove è il tempo. Questo è quello che fa il tuo tempo. Oh. Fatti il tuo tempo. Fatti il tuo tempo. Fatti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Batti il tuo tempo. Fotti il potere. Batti il tuo tempo. E che il tuo seme. Batti il tuo tempo per fottere il potere. Di vita, ma noi non ci adattiamo, non indietreggiamo, combattiamo per salvarci la vita, e voi. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, non ti nascondere se sei. Antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro la truffa tra le potenze. Antifa, levo il dandito se non sei. Antifa. Antifa. Siamo noi che per la strada andiamo in giro sempre in gruppo ed armati. Guagliù, non siamo noi che ci proteggono la polizia e i servizi segreti. E a fu, non siamo noi che promuoviamo l'odio e poi vendiamo falsi rimedi. No, noi siamo qui che resistiamo. Noi non abbocchiamo e non vogliamo gli indecisi tra i piedi. Non esiste un evasto, era mai senza poi difendere. Tanto non tocca a tamma, non c'è ruota a vendere. Non è questione evasto, era mai senza poi difendere. Tanto non tocca a tamma, non c'è ruota a vendere. Antifa. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, non ti nascondere se sei. Antifa, siamo un esercito ribelle. Antifa, che combatte per la sua pelle. Antifa, alza le mani, siamo noi. Antifa, noi promuoviamo convivenza. Antifa, contro la turma tra i potenze. Antifa, leva il dandito se non sei. Antifa. Siamo i gay, le lesbiche, siamo i nordafricani, siamo ebrei, musulmani, siamo vestiti strani, siamo ispanici e romeni, siamo rom, siamo slavici, ma napoletane, fatica, ma milana, dai, vuole comunisti, tossici e disoccupati, al di là se abbiamo scelto, se ci siamo nati, siamo tutti diversi e severa, siamo diversi e facciamo vera. Fascismo e libertà. Se tu associ queste cose, tu anche lì ti ha fangurato. Ti ha fangurato. Ti ha fangurato. Il fascismo non è libertà, il fascismo è una minaccia. Nessuno ci minaccia, ma il signor Amman faccia. Libere Gumanna, e non dobbiamo parlare. Benvenuti nel regime delle loro libertà. Libere di imbrugliare, eppure di sparare. Chi dice no al regime grida in coro Antifa. Antifa. Antifa, alza le mani.

distrutto la mia città, senza scusarti con chi ci viveva già come gli indiani nella cosiddetta America. Quello che vedo è una fottuta riserva che conserva i segni di chi non ha più un sogno e che spera di non doversi sparare un'altra pera per creare la cosiddetta atmosfera. Caso fosse incandescente, ogni fuori casa parla su un caso precedente. Ha dato così, è la seconda che ha avuto sud e sempre in netta difesa. E capo povero non bisogna avere tanta pretesa, bisogna aspettare perché tutto si deve aggiustare. E con la cazzo di statistica mi devo confrontare ed impazzire con la mia crisi mistica. La mia cazzera senza pari non mastica, le due sono solo strozzate utopistiche. Esco fuori come un mito e la raffica, le traffo praticanti di arbitro che si invasioni riluttanti, come gli immigrati verdinettanti che fuggono dalle loro terre cacciate le più potenti e vendute migliori offerente come merce che non serve. B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. Tu per anni hai deciso, agito, ucciso, per quanto sia possibile tu mi hai tolto il sorriso, ma la tua sfortuna è che siamo ancora in vita, resta aperta la partita, impugno la mia spalla e colpisco all'impazzita, in tempo di guerra oserei definito, warriors come out to play, ma noi è che libera guerra fra territorio, o meglio guerra fra povera, una nemica stessa da fuori si conforti mi saluia, mi c'è fama tra guagnetta e tra guagnuna, che quando la città di truce che per me sta di sciura, io sono sveglio eppure resto a galla, venimi a calci ma io non sono mai la tua palla, il soffolto era scordito. Posso la testa stare sul bersaglio e quelli che sei pinto può essere salvezza. Col campagna d'Arezzo a te che sei palla ma ne hai capito un cazzo. A quale su tratto e chiude razza, bianco e giallo e nero o su cazza. O mostra ste e guarda mostra non aspetta né a me né a te. B.I.B. potere al quartiere, giorno per morire, perché ho deciso per il mio avvenire, non aspetterò più l'incrudire per uscire, potrà essere il mio ultimo colpo da sparare, ma non è quella a preoccupare, da qualche parte bisogna pur cominciare, con la lotta dei comitati tanto per dire, con il loro agire popolare, loro stessa città perché possono insegnare, alla valletta con la scena, alla lotta contro il nucleare, basta che contro le nendere nendra, quando pensa nel movimento cambia già tutto quanto intro. B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. potere al quartiere, B.I.B. agita è sotto terra a Roma, i mafusi sono tutti infami, campano di sbatti i cristiani, i mafusi sono tutti infami, sua vergogna meridionali. Agitare sotto terra a San Luca, a San Luca, agitare sotto terra a Plati, a Plati, agitare sotto terra a San Luca, a San Luca, agitare sotto terra a Plati, a Plati, a Plati, a Plati, a Plati. Paure, nu paure, na baciata, na baciata, na palora, antana ricchia, na questione sistemata. Paure, nu paure, na baciata, na baciata, mille onore, la famiglia, na lo paranza ambugliata. Fame, fame, fame, fame, fame, fame, fame. voce su tutti infami, campano di stati i cristiani. Prima voce su tutti infami, sua vergogna i meridionali. Prima voce su tutti infami, campano di stati i cristiani. Prima voce su tutti infami, sua vergogna i meridionali. Non su eroi, su vampiri, su avvoltoi. Kid non su eroi, su vampiri, su avvoltoi. Kid non su eroi, su vampiri, su avvoltoi. Kid non su eroi, su vampiri, su avvoltoi. Kid non su eroi, su vampiri, su avvoltoi. Kid non su eroi, su vampiri. Carne da macello, uomini con anime, sottili come lamine, taglienti come il crimine, rabbio sotto ogni limite, eroi senza una terra che combattono una guerra tra la mafia e la camorra, Sodoma e Gomorra, Napoli e Palermo, succursali dell'inferno, divorate dall'interno, in eterno, da tessuto tumorale di natura criminale, mentre il mondo sta a guardare muto senza intervenire, basta, alla guerra fra famiglie, fomentata dalle voglie di una moglie con le doglie, così dalla vita ai figli e domani gliela toglierà, rispondi dalle foglie che lei taglia come paglia e nessuno se la piglia. La vigilia di una rivoluzione alla voce del padrino, ma Don Vito Corleone oggi è molto più vicino, sta seduto in Parlamento. È il momento di sferrare un'offensiva terminale, decisiva, radicale, distruttiva, oggi uniti più di prima alle cosche, bosche, attitudini losche, mantenute dalle tasse, alimentate dalle tasche. Basta una busta nella tasca giusta, in quest'Italia così laida. You gotta fight the fighter. Fare castrare dal potere criminale che ti vuole fermare, guastagli la testa, abbassagli la cresta, guarda la sua testa rotolare nella cesta, libera la mente da ogni assurdo pregiudizio, è l'inizio della fine del supplizio che da secoli ti domina, ti ingoia e ti rivomita, potere di quei demoni che noi chiamiamo uomini, che uccidono altri uomini, che sfruttano noi giovani, che tagliano le ali agli angeli più deboli, potere che soggioga, potere della droga, potere di uno stato che di tutto se ne frega, strage di Bologna, Ustica, Gladio, cumuli di scheletri ammassati in un armadio, odio, il tuo seme germoglia nella terra, fecondato dal sangue della guerra e la camorra, indomita, ricca e strapotente, continua ad uccidere la gente, tombe, catombe, esplosioni di bombe, pratiche di mitra, falcide di bande, Cosenza, Potenza, carne morte in partenza, consacrata alla violenza senza fuori resistenza, Alpi, Salento, un solo movimento, quindi sul sistema pretendiamo un cambiamento, ridateci la terra, basta con la guerra, dalla strada all'intifada, you gotta fight the fighter. Se ti fimi nella mula e la mula vi diventi, se ti fimi nel serpente e un serpente minato, se ti fimi fight. La mafia, la montagna di merda, la montagna di merda. Sono artista, mentre filo parlo più sono camorrista. Corno nega, mi dico stare qui nel garettista. Quasi come uno scontro fra Ercole e Macista. Quando potere porta medicina non c'è esista. Quando sto camorro lo stato si chiama farmacista. Spalanca la tua vista, vivere scivolare a campanare. Grinando tutti quanti via dalla pista. Vivere la tua vita, via libera. Dopo che poi c'è un gangster, ma vita quelle cucine sta in mitta. Oggi l'uomo blu che continua a mancare e da rispetto. A prima le gang si chiamavano clan, non mi chiama da recitto. Usanca lui che però sparava, magari non si poteva parlare. In Italia nasce la mafia, in Europa combattiamo la mafia, il mondo in comune, la mafia non siamo i veri globalizzatori della mafia, un stato organizzato in uno stato stesso, un tipo facile c'è come la munnezzo, mi sto gravando un pomeriggio, c'è il servo ma sta buena, a paese mangio sulla mente un veleno, un buon costo troppo non devo resisto fritto, chi un passo ti faccio da chi un scudo al rizzo, sempre chi un paiano sempre chi un amico, avanti un fisco un scopo una città sempre chi un rizzo. Unica attacca terroristico, un boss da casa, si chiama Nato, si chiama Riva. Una radina malalo, ci vede qualcosa se ballo, ma arriva. Fa televisione da stendiscio, attenti alla lavo, all'immigrato, o clandestino. Quando arriva nel sorcito, son filo, la basta di te, tu sei vice. Loro scappano dalla guerra e dice che non è una fatia. Sento il tuo fiano che mi incendi come se stessi a ruota. Tu mi cacci dalla mia città, non fuori le via. L'abuso e la violenza, non ricatto. Governanza scatto, non mi sei idea densa. Io parlo di far battaglia, di fare una guerra. Perché stava qua, compa, per fare una guerra, c'è la precedenza. Ma fa che vorrei andrangheta, stai con loro unita. Viglio fiato, io recupero con la mala vita. Guarda niente, giù per tanto proiettala. Calma, la mamma mi sta strada, che tu la motivo è tutto suelta. Anche che no, stanno spesso, no, no, no. Aprivo lui è cassivo, tutto buono. Modelo di bla bla bla. Yo. Hanno portato chitarre e tamburi, e che sta musica sa da cagna. Basta sfumare sta tangia e stussuli, senti sta voce di sterialità. Si complicanti e facimmo paura, e con microfono vima canta. Non ce ne fotte riposte i padroni, a terra è nostra e non sa da trucca. Parola vera, la posta è alta come idea, lirica Guernica, apocalisse la mia terra che fiducia. Oggi che nessuno è più al sicuro, carta brucia. Fahrenheit 451, Reggio Calabria dove è quasi sempre estate, dove volano molti proiettili e poche minchiate. La gioventù che resta pensa solo a sé e nella merda fuma più erba di Dottor Dre. Si che urla perché nessuno sta a sentire, spinge forte perché affamata da morire. I nostri sguardi sono i soli che non cambiano. Ascolto Bob canta War in a Babylon. Combattiamo come abbiamo sempre fatto, pugnati e chette in faccia come nel 94. Fogli coi pensieri, sogni e desideri, scusate se non canto il vostro inno di mamma. Portate chitarre e tamburi, e che sta musica sa da cagna. Basta stufare sta cangia e stussuli, senti sta voce di sta realtà. Si complicanti e facimmo paura, e con microfono prima canta. Non ce ne fotte riposte i padroni, a terre nostre non sa da tuca. Se l'ansia del futuro è un sole scuro su sta terra, oggi brucia l'atmosfera tipo effetto serra. Per la mia gente non c'è trucco e non c'è maschera, nessun Barack Obama a dirvi che possono farcela. La città che sorride coi giornalisti dove dice crucifige a troppi poveri cristi, ed il presente a volte genera i suoi drammi, a volte dà in mano il microfono a un ragazzo a 15 anni. Ogni giorno sopra il corso celebra i suoi dei, ogni notte canta il blues come Lady Day. E non c'è stadio, non c'è droga, non c'è via d'uscita, la vita scorre come sangue da questa ferita. Mille colori insieme fanno un solo grigio. Passa un pezzo in radio, dice losing my religion. Spengo la radio, mi gioco quel che ho, chiudo un'altra strofa, shutdown Babylon. Portate chitarre e tamburi, e che sta musica sa da cagna. Basta stufare sta cangia e stussuli, senti sta voce di sta realtà. Si complicanti e facimmo paura, e con microfono prima canta. Non c'è del forte riposte i padroni, a terre nostre non sa da tutta. Capito rosso, nel sangue di Plati e Salù, rosso sulla strada per due colpi sulla nuca. Vedo rosso da quando l'omertà ha ucciso Reggio, rosso come il Conti del sindaco ancora peggio, rosso come mio padre nel 68, rosso come gli occhi di chi ha già sognato troppo, rosso come il sangue di Cristo, come le fiamme di chi ormai è caduto in un abisso, rosso come il Duglia, Cuglia, Cuglia, Cuglia, e gli squadri dei mafiosi nascosti tra gli alleluia. Io, R.C. Massivi, in alto gli accendini, per ogni 28 aprile diamo fuoco a Mussolini. Se ti assale la paura è come l'alta marea, il rosso si confonde col tramonto di Tropea. Tu osservami sul serio, se trasforma un colpo in battito, non chiamarci Calabresi, a morire un altro anano. Portate chitarre e tamburi, e che sta musica sa da cagna. Basta stufare sta cangia e stussuli, senti sta voce di sta realtà. Si complicanti e facimmo paura, e con microfono prima canta. Non c'è nel forte riposte i padroni, a terre nostre non sa da tutta. Non vengo per portarti la solita retorica terronica, ogni lettera che traccio come un gancio che ti corica. Senti la tarantella nelle strade, passa il testimone ad ogni figlio, da ogni padre abbiamo il gene che trasforma, contamina ed invade. La mia storia è scritta con il sangue sulle spade, ogni paese qua c'ha periferie sotterranee, e bam bam un'altra testa che cade. Mi scrutano da tempo con lo sguardo del sospetto, perché metto dentro il tempo lo sgarbo di frasi effetto. Vorrebbero rispetto in quanto tali, se cantano rinnego i miei natali, ma sputo in faccia questi maiali. La maschera che ride, la mano che dopo uccide, che scrive parole vive sepolte dentro le righe. Io esco da quei margini fiero, senza proclami, con le immagini che affondano l'impero degli infami. Ho portato chitarre e tamburi, e che sta musica sa da cagna. Basta stufare sta cangia e stussuli, senti sta voce di sta realtà. Si complicanti e facimmo paura, e con microfono prima canta. Non c'è nel forte riposte i padroni, a terre nostre non sa da tucca. Thank you. La voglia che mi spinge, non so come si chiami, emana un'energia più potente del tsunami. Catastrofe mentale che parte dal mio cranio, devasta da far male, più forte dell'uranio. Se pensi di scamparla sei proprio fuori pista, sto ritmo ti deraglia, ti stende e ti conquista. La mente si rilassa, il corpo si scatena, ti scali sulla massa, ti senti il fiume in piena. Terremoto sensoriale, noi siamo l'epicentro, sorretti dalla scossa che ci parterà dentro. Non ci sarà rifugio che ti terrà al sicuro, se ti rintani in casa noi sfonderemo il muro. Te la stavi sciallando, pensavi non ci fossimo, se mi stiamo arrivando con il livello prossimo. La forza si miscuglia, annienta la battaglia, missili dalla Puglia, col Frostensi di Scaglia. Non puoi fermare l'onda che avanza sempre più, il suono che ti sfonda e su Foundation Crew. Non puoi fermare l'onda che sale sempre più, il ritmo che ti sfonda e su Foundation Crew. Quando non ti vedo morto, continuerò questo gioco pure da risorto. Il quanto stronzo non vale un cazzo, se metti un gioco tutto adesso senza contenuto denso. E quindi quando più io penso che sono più bello stento in queste ossa, queste roba mia, mia è roba vostra. Fatti un giro senza giostra, mettiti in mostra. Ed è tempi dell'asilo che consumo merda, che questi amico tu dimmi che qui l'ammetto. Non fare merda a letto, ogni tuo pensiero lo consulto, lo frantumo e poi l'oggetto. Ora aspetta il giorno del perfetto, guarda bene nel destino che c'è scritto. Adesso tira dritto, cessa questo è il mio sorpasso. Tutto c'è qualcosa di concreto, pure taci brutto credo. O qui ti spiego come ti sei messo, ma di certo non ti nego fesso. Non puoi fermare l'onda che avanza sempre più, il suono che ti sfonda e su Foundation Crew. Non puoi fermare l'onda che sale sempre più, il ritmo che ti sfonda e su Foundation Crew. Elaborate, e non mi puzza il fiato, sai perché uso Golgate. È la freschezza che arriva nei bassi fondi, su Foundation Crew non ti confondi. Guarda questi volti presi dalla guerra, ma senti queste voci che fanno tremare la terra. Hai voglia di ascoltare, metti di mezzo, dopo niente una strofa prosegui un altro pezzo. E in ogni situazione vedi una nuova reazione, e ciò vuol dire che ancora qualcosa si muove. Il sangue mi ribolle e l'emozione sale, puoi anche definirla una malattia mentale. Che non mi passa, e no che non mi passa, che non mi passa, e no che non mi passa. Non puoi fermare l'onda che avanza sempre più, il suono che ti sfonda e su Foundation Crew. Non puoi fermare l'onda che sale sempre più, il ritmo che ti sfonda e su Foundation Crew. Il generale, cosa aspetti a saltare? Cosa aspetti a saltare? È arrivato il generale. Posse! Chi sei? Dimmi chi sei, che vuoi? Pari pari pari pari pari pappa, pari pari pari pari pari pappa. cos'è, cos'è, cos'è questo stile fiorentino? È un nome che ad orecchio pare un po' cretino. E questo generale cosa ci racconta? Scrive baggianate, quel che peggio ce le canta. Non è giamaicano, no, questo è fiorentino. Ma me mi sa che un altro che vuole fare il cantino. E si fa dire a bozza la reticolo, non è così, è da solo che si scansona. E se poi dice Coca-Cola o la annuncia davanti a tutti, certo fa una figuruccia. Non mi stanno scuotendo, vedi io cosa rispondo, ma questo è presto detto. Su via ragazzi, oh via ragazzi, boom, avete stuzzicato, e tocca a dirvi tutti che non avete capito. Lo stile fiorentino è come il giamaicano, ma nelle strade qui parlano italiano. Loro dico weekend, un bicio dico tosto, così che a Barranca e non gli rubo il posto. Lui sta in Giamaica, parla un inglese strano, e lo stesso faccio io, ma con l'italiano. Senti, senti, senti, senti, senti, porta salta con il generale, dammi dietro dai non ti fermare, quando senti dire pure vai, dammi dietro non fermarti mai, pure vai, salta salta non fermarti mai, pure vai, dammi dietro dai, pure vai, salta salta non fermarti mai, pure vai, dammi dietro, senti senti senti il generale fiorentino, non sarò più furbo ma non sono nemmeno cretino, sono da posto cresciuto in piazza del mercato, per questo fin da piccolo mi ero abituato a far la rima baciata, a trovare una sonanza originale non sfruttata, ma non so il shava, non sono casi runs, né bobo, né tris, ma solo general, si ho la lingua lunga, senti che rovina, come Veneto se che controlla la città vetrina, senti, senti, senti. Se ti piace il rabadaba, ti piace il DJ style, salta con il generale quando dice pure vai, al ritmo della strada dello stile fiorentino, dietro al generale vai nel centro cittadino, scandici come campi, sei stato fiorentino, Galluzzo, l'isolotto, Castello e San Donnino, salta San Fediano, salta Correggiano, che solo incontro a Bilomo, bella rima Serpignano, segui il ritmo della strada, segui il ritmo originale, insieme alla tua posta e vieni dietro al generale, ritmo originale. La tua rima come fare un orecchino, la prepari a tavoli. No. Caro Kibi, caro Kibi, caro Kibi, caro Kibi, io la mia rima la polli per lì. Basta! Radio transizione di fase, radio transizione di fase, radio transizione di fase, radio, questa è la radio che ascolti nella tua città, in ogni luogo lei ti accompagnerà, se tu lo dirai la gente di più, è la tua radio e non vive di pubblicità, ad ogni orario trasmette la realtà, transizione di fase, dal sud, senti! Non è la radio commerciale con le hit parade o con le solite voci di quei DJ. Radio ribelle spinge contro informazione, la censura non fa i tagli come Miracle Play. Dal sud al nord ovunque resta connesso, la guerriglia passa dalla rete adesso. È così che qui noi facciamo resistenza, radio transizione di fase contro tendenza. Yo, Calafro Sound e radio transizione di fase, guerriglia in strada nell'etere in rete. Sin ha, straight from Calabria, you know? Camina! Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientalista, ed in passato sono stato un po' sessantottista. da un po' di tempo ambientalista. Qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista. Io sono un uomo nuovo, per carità lo dico in senso letterale, sono progressista, al tempo stesso liberista, antirazzista, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un po' controcorrente, son federalista. Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta. Il conformista ha tutte le risposte belle chiare dentro la sua testa. È un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani. E quando ha voglia di pensare, pensa per sentito dire, forse da buon opportunista si adegua senza farci caso e vive nel suo paradiso. Il conformista è un uomo a tutto tondo che si muove senza consistenza. Il conformista s'alena a scivolare dentro il mare della maggioranza. È un animale assai comune che vive di parole, da conversazione. Di notte sogni vengono fuori, sogni di altri sognatori. Il giorno esplode la sua festa, che stare in pace con il mondo e farsi l'arco galleggiando. Il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo e con le donne c'ho un rapporto straordinario. Sono femminista, sono disponibile, ottimista, europeista. Non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista, leninista. E dopo un po' non so perché mi sono trovato catto comunista. Il conformista non ha capito bene che rimbalza meglio di un pallone. Il conformista era stato evoluto, che è gonfiato dall'informazione. È risultato di una specie che vola sempre a bassa quota in superficie, poi sfiora il mondo con un dito e si sente realizzato. Vive e questo già gli basta, e devo dire che oramai somiglia molto a tutti noi. Il conformista, il conformista. Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che si vede a prima vista. Sono il nuovo conformista. Thank you. Anzi, sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e tre piaghe nel cuore, e nessun filo per poterle cucire, e il coraggio per poterle cantare. Grazie, sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e rubata la voce, mi hai schiaffeggiato sull'ultima guancia, non mi restava null'altro da offrire. Gambe per un colpo di reni, colpo di reni per il salto di fuori appeso nel vuoto, un colpo di grazia per non farmi altro male. Grazie sorella sconfitta, mi hai dato gli occhi e i calli alle mani, una lima ai nervi per imparare, santa impazienza, ma ciò che tarda avviene. Mi hai dato gli occhi e tre lame nel cuore, qualche canzone da rimarginare. Mi hai dato gli occhi e un microfono in mano, e il coraggio per poterla cantare. Thank you.

tra 20 minuti troverete questa trasmissione online, nel senso la potete riascoltare. È una trasmissione strana. E ciò che è stato fatto prima di essere espresso. E forse sarà per sempre una trasmissione unica. A domani. Ricordati di me, ricordati.